Grazie Pink Floyd con le note di questa Time, grazie a voi per avermi seguito sino a questo punto. Vi rimando domattina dalle 9 alle 12 oppure questa sera con la puntata dalle 20 alle 21 di Hard and Heavy. Un grazie veramente, buon proseguimento per questa giornata. Tra poco qua in onda Claudia per voi. Ciao ciao. Siamo architetti ricchi di Belen e vecchie rive del mar. Abbiamo ville, abbiamo Cadillac ed uccidiamo persone.